e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata ancora una volta speciale di Cuore e Denari, se non altro nella prima parte, no? Concentreremo un po' anche noi dei commenti relativi alla nuova emergenza che sta travolgendo il centro Italia, Nicoletta. Sì, ieri quattro forti scosse in poche ore hanno colpito di nuovo il cuore del nostro paese, poi la valanga sull'hotel del Gran Sasso. La situazione è sempre più critica per le persone che stavano lentamente rielaborando la paura del terremoto e si trovano quindi ancora una volta a fare i conti con l'emergenza che in questi giorni sembra ancora più dura proprio a causa del freddo e della neve. Allora ci saranno naturalmente i collegamenti con la nostra redazione, vogliamo subito salutare la Laura Bettini. Collega. Buongiorno a tutti. Ciao Laura, grazie. Io vi darò così, diciamo, gli aggiornamenti di questa situazione drammatica che vediamo sta sviluppandosi, in particolare noi sappiamo l'hotel travolto dalla slavina, quindi teniamo d'occhio quella ma anche tutte le altre situazioni d'emergenza ovviamente. Nella seconda parte poi torneremo con Investire Informati, ma naturalmente pronti a ridare la linea alla redazione in ogni minuto quando sarà necessario. 800 24 00 24, di fronte ad una emergenza di questo tipo e vogliamo raccogliere anche le vostre emozioni. Forse avete provato una situazione di questo tipo, avete dei parenti che vivono lì in quelle zone. Ieri quando ho sentito che la scossa era a Roma, il mio pensiero è andato subito a Deborah perché sapevo che era lì mattina, e allora esatto. Ti misuri anche con il pensiero delle persone, dei parenti che sono lontani, vorrebbero magari raggiungere le famiglie ma hanno il lavoro, i collegamenti sono difficili e quindi il cuore si divide. Ma noi vogliamo andare subito nel cuore del problema e ci colleghiamo con il dottor Giampiero Porzi, oncologo all'ospedale dell'Aquila, che ci racconta la situazione, perché gli ospedali continuano a lavorare, i malati naturalmente vanno assistiti anche in queste condizioni di emergenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, dottor Porzio, l'Aquila, voi non ci si riprende mai da questa paura, ci si solleva e poi di nuovo un'altra emergenza. Ecco, bisogna sviluppare quella che gli psicoterapeuti chiamano resilienza, ma immagino sia dura, e soprattutto anche per i medici portare soccorso, garantire una eccellenza anche nei momenti come questi che sono particolarmente difficili anche dal punto di vista organizzativo. Dottor Porzio, ci dia lei il quadro della situazione. Lei si occupa tra l'altro di malati oncologici. Certo, purtroppo all'Aquila ormai siamo abituati a vivere in prima linea, è dal 2009 che continuiamo ad avere problemi legati a queste tragedie. Devo dire che in questa circostanza, come in altre, l'ospedale ha continuato a lavorare. Io in questo momento sono nel mio reparto, pochi minuti fa abbiamo ricoverato un paziente che aveva bisogno, quindi l'ospedale è attivo, è aperto, funziona in tutti gli aspetti, sia per gestire l'attività ordinaria sia l'emergenza. Fortunatamente non abbiamo avuto feriti legati all'ultimo terremoto, quello di Montereale, però ecco, la cosa importante è che siamo qua, continuiamo a esserci, non so se si chiama resilienza o cosa, ma continuiamo a combattere e continueremo ancora. Dottor Porzio, noi tutti impariamo da voi la determinazione, la forza e il coraggio. Lei è medico e come tante persone, come tanti suoi colleghi, ma penso anche agli infermieri, agli psicologi, alle persone che sono vicine, vi aiutate gli altri. Chi aiuta voi? Come fate un po' a ristrutturarvi, a scaricare anche questo peso emotivo e a rigenerarvi per essere sempre pronti a donare e a dare? Ma guarda, devo dirti, nel mio reparto in queste circostanze prevale molto uno spirito da fighter, no? Direbbero negli Stati Uniti, da combattenti, cioè cerchiamo di stare uniti e di combattere insieme, come dicevo prima, queste situazioni. E poi è chiaro che ognuno vive le sue problematiche personali. Io il giorno del terremoto del 6 aprile all'Aquila avevo un bambino di 26 giorni, sì. Adesso il bambino ha 7 anni, ma ancora una volta mentre io lavoravo ieri il bambino era con la mamma nel parcheggio dell'ospedale. Quindi è chiaro che ci dividiamo un attimo fra quelle che sono le importanti attività di lavoro e quelle che sono le nostre vicende private. Questa notte abbiamo dormito tutti insieme, nel cosiddetto progetto case, che è un ambiente sicuro e sicuramente antisismico. Quindi cerchiamo di rispondere come possiamo a quelle che sono le nostre necessità private, non dimenticando però quello che è il nostro ruolo. Questa non è la retorica, fare il medico è una missione, no, certo. Queste cose io non le ho mai tollerate e non le capirò mai. Però ecco, in questi momenti dobbiamo esserci, perché c'è gente che ha bisogno di noi. Poi ecco, se capita come ieri sera, la tua telefonata, che è la telefonata di un amico che ti chiama da Milano e ti dice sono qua, sono a disposizione, quella telefonata diventa una boccata d'ossigeno che ti dà la spinta per andare ancora avanti. Scusami se l'ho detto, ma è bello, è bello, perché ce la fa commuovere, dottore. No, è vero, però però il cuore non solamente mio, perché mi lega l'affetto a Giampiero, ma è un po' di tutti gli italiani, è lì, perché a me è venuto naturale dire venite che allora grazie. Poi vogliamo raccontare, e ci sarà tempo di raccontare, un bel progetto proprio di Giampiero, certo, Porzio, molto, che fa per sconfiggere un altro problema che è grande, è il dolore, vero? Un progetto. Mi consenti ancora un secondo? Sì, certo. Poi parleremo del dolore e delle modalità di affrontarlo in maniera innovativa e forse rivoluzionaria e futurista. Però se mi consenti un attimo, ecco, ci sono tante persone ad Amatrice, a Cumuli, che stanno veramente vivendo in questi momenti delle situazioni veramente difficili. Ecco, so che tu sei in grado di farlo, non le dimenticate, perché non devono essere dimenticate. Noi siamo pronte con un progetto che speriamo di far partire al più presto, sperando naturalmente anche di poterlo portare avanti senza più neve, per poter raggiungere queste località, e faremo un percorso con cuore e denari con un nostro amico. Non sono ancora in grado di poter dare molti dettagli, perché lo stiamo proprio confezionando in queste settimane, ma siamo pronti a partire, quindi lo preannuncio già ai nostri ascoltatori, proprio per continuare a mantenere puntato e acceso un riflettore su queste zone che hanno assolutamente bisogno di risollevarsi dal punto di vista emotivo ed economico, e hanno bisogno del nostro sostegno. Grazie dottore, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro, un abbraccio grande. Insomma, il terremoto è, come dicevamo, nei nostri occhi, nei nostri pensieri, nelle nostre priorità, e quindi vogliamo stare su questa emergenza che ha delle ripercussioni individuali, sociali molto importanti, che non sono solo circoscritte alla popolazione che vive nelle zone colpite. In qualche modo tutti noi partecipiamo emotivamente, anche se non fisicamente, al dramma, e ne siamo impattati. Di questo parliamo con un amico di Cuore Denari, che torna spesso che coinvolgiamo spesso quando vogliamo capire che cosa succede nel nostro cuore, nel nostro cervello, e dare anche un nome a quelle emozioni che si agitano dentro di noi e che facciamo fatica a definire in modo chiaro. È tornato a trovarci il professor Giampaolo Perna. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e Deborah e tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Professore, direttore del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive all'Università di Maastricht, ma soprattutto è anche psichiatra, un grande esperto di neuroscienze. Dottore, professore, ha sentito il racconto del suo collega? Sì, l'ho sentito. Ecco, che effetto le ha fatto, insomma, di questo uomo, che sicuramente non è un eroe, perché come il dottor Porzio ci sono tantissime persone che lavorano lì sul campo, continuano a fare il loro lavoro, continuano a trovare una ragione per andare avanti, ma lei che ha un orecchio clinico, che cosa ha raccolto da questa esperienza? La sensazione interna, Nicoletta, è quello che in momenti così importanti ognuno di noi tira fuori quell'eroe che c'è all'interno di noi, per cui ognuno di noi può tirare fuori qualcosa in più, no? Soprattutto sul lato umano, da mettere in campo, che può fare la differenza. Questo è l'effetto un po' della solidarietà umana, quindi noi fin quando tutto va bene pensiamo ai fatti nostri, però siamo capaci di tirar fuori quello che è l'aiuto verso gli altri, andando oltre quello che possiamo e dobbiamo, no? Proprio in questi momenti. Quindi ho sentito, come dire, chi è tornato fuori, chi fa l'eroe tutti i giorni, ma diventa eroe speciale in questi momenti qui. Questa è la sensazione avuta di base. Nico, devo dirti che pensando alla telefonata che sarebbe arrivata e cercando di ragionare su qualcosa di importante, la prima cosa che mi viene in mente sono quelle centinaia e migliaia di persone che hanno dei disturbi d'ansia di base, perché si parla sempre dell'effetto del terremoto sulle persone, ma ricordiamoci, ci sono tante persone che hanno già di base, sono più deboli sui meccanismi di difesa dallo stress, e soffrono già di problemi d'ansia. Allora, queste persone ovviamente vedono amplificate le paure, le ansie, le angosce, ed è lì dove bisogna che l'apporto soprattutto dell'equipe di psichiatri e psicoterapeuti sia un apporto solido, perché queste sono le persone più a rischio in questo momento di vivere malissimo una situazione che già è molto pesante per una persona che è solita di base. Allora, sicuramente su questo aspetto torneremo, ma vogliamo parlare anche, abbiamo aperto i microfoni di Cuore Denari, a Michele che ci chiama dalla provincia di Macerata. Certo. Debora. Michele, buongiorno. Particolarmente colpito, ovviamente. Michele, grazie per averci chiamato, ci racconti. Noi facciamo parte a Porto Recanati di un'associazione, Porto Recanati Solidale, che è nata a fine agosto sull'emergenza delle prime scosse di terremoto. E costantemente, con le poche forze che abbiamo, perché siamo un gruppo di volontari, grazie al cuore di tanti concittadini di Porto Recanati, aiutiamo i paesi limitrofi, portando aiuti, quello che ci chiedono. E la cosa veramente drammatica è che al 20 di gennaio ci siano ancora migliaia di persone che dormono nelle roulotte, nelle tende, nei camper, che sono isolati, allevatori che non sanno dove sbattere la testa perché hanno animali in mezzo alla neve. E ieri allevamenti andati persi anche. Allevamenti andati persi. Esatto. E ci sono, mi sembra, dei decreti regionali che parlassero di aiuti di allevatori che, se potevano intervenire in prima persona, sarebbero stati rimborsati, e questi neanche lo sapevano, per cui mancanza anche di comunicazione su certo, cose molto importanti. Ieri abbiamo contattato il sindaco di Mucchia, che è un comune colpito, e per rimuoverci dopo le scosse di ieri, e ci chiedono ancora generi alimentari, e stufette per riscaldare queste Michele, persone. Michele, mi arrivano delle richieste, poi diamo la linea alle informazioni sul traffico e proseguiamo, anche via SMS, di persone che dicono: ma noi, io sono a Milano, io sono a Torino, da Rovigo, come posso aiutare? Gli aiuti niente. In coordinarsi casi con bisogna, i centri provinciali partire. No, esatto, della Protezione Civile, sì, Caritas in primo luogo, direi, perché poi, ecco, quando si polverizzano anche gli aiuti qua si complica un po' tutto, per cui so che qualche volta può apparire frustrante per chi ha questo ardente desiderio di poter fare qualcosa, ma è necessario agire sotto il coordinamento, perché conferma, è più Michele? Ma sì, per carità, tutto è utile. Vuole fare un appello? Noi abbiamo un blog, Porto Recanati Solidale, dove riceviamo aiuti da tutta Italia. Ecco, mettiamo anche questo. Allora, un blog per Porto Recanati Solidale. Questo è già un altro riferimento che ci dà Michele, anche un'occasione per partecipare, per sentirci vicini. Ma come sottolineava Debora, l'importante è evitare delle iniziative private che sì, come hai detto, polverizzano. Mi è piaciuto, è vero. Allora, e rimaniamo con una manciata di polvere. 800 24 00 24, segnalazioni, condivisioni, chiamate al nostro numero verde. Intanto andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e poi continuiamo a fare una riflessione a voce alta con il professor Perna, che rimane in linea con noi. A tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, Laura, anche tu hai naturalmente degli aggiornamenti, poi... Sì, ho qualche aggiornamento, Nicoletta, che purtroppo non arriva dall'hotel Rigopiano di Farindola, purtroppo non abbiamo buone notizie da portarvi da lì. Abbiamo visto le immagini, purtroppo, che sono state trasmesse dalle televisioni poco fa, le prime immagini girate all'interno di questo hotel, e sono veramente impressionanti, quindi insomma... speriamo di poter dare qualche buona notizia, non sarà così, non è scontato, ecco, però, che possano arrivare da lì. La buona notizia forse arriva un po' più sul fronte dell'energia elettrica. In questi minuti ci sono tantissimi, come sappiamo, come ricordavi anche tu, che non hanno elettricità. L'Enel lavora ovviamente per riportarla a tutti coloro che sono rimasti senza. Nelle ultime ore circa 8.000 sono state le utenze riconnesse, ne mancano però 90.000, quindi il lavoro sarà particolarmente lungo. Per il momento questi sono gli aggiornamenti, e ovviamente sono qui con voi, quando arriveranno sarò la prima a darveli. Allora, intanto in linea con noi, come anticipato, abbiamo il professor Perna, che ci aiuta un po' a mettere a posto queste emozioni. Quindi, scusate, se abbiamo di nuovo dalla regia, mi entra la voce di Carmelo. Professor Perna, mi piacerebbe, cioè viene da chiedersi, e voglio questa domanda anche girarla ai nostri ascoltatori, se di fronte a delle emergenze di questo genere ci sentiamo reattivi e magari ci attiviamo per fare qualcosa, ciascuno secondo le nostre possibilità, oppure invece siamo trascinati in una sorta di ansia, di paura che ci lascia una sensazione di impotenza e ci fa sentire ancora più vulnerabili e facilmente attaccabili. Ma vorrei anche chiedere alle persone che hanno vissuto una situazione di questo tipo estrema, come sono andate le cose, che anche consiglio vi sentite di dare o anche che messaggio volete dare a chi sta vivendo una fatica tanto grande, come quella di essersi trovati in questa situazione, quindi la terra che trema sotto i piedi, i soccorsi che diventano sempre più difficili per la situazione climatica, la neve, il freddo e questa paura che si ripete. Professor Perna. Beh, la cosa che colpisce di più adesso è il fatto che non stiamo parlando di un evento singolo, ma a questo punto ormai è da mesi e mesi che continuano a ripetersi questi eventi, per cui questa frequenza continua mette un senso di pericolo continuo di base, che porta a che cosa? A un vero e proprio stress cronico. Mm. Lo stress cronico vuol dire essere sempre in allarme, attivare il corpo e il cervello con tutta una serie di sostanze e ormoni che, se attivate a breve termine, ci aiutano a combattere molto. Se trascinate a lungo, sono in qualche maniera dannose. L'altro elemento negativo che può essere colpito è il sonno. È chiaro che se io ho paura dell'infarto, e difficilmente potrò dormire sereno o vorrò prendere sonno, proprio per la paura che possa accadere di notte. E rompere il ritmo del sonno sicuramente vuol dire rompere uno degli equilibri fondamentali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente una delle prime cose da fare è imparare a rilassarsi. Cioè quello che usualmente si fa e che adesso è molto più difficile diventa molto importante. Questo perché scarica un attimino i livelli di stress. E come si fa? Intanto cercando, per quello che si riesce in quelle condizioni, di distrarsi. Ognuno ha dei piccoli hobby, delle piccole cose che magari sono comunque ancora gestibili adesso, e quindi la capacità di dedicarsi, voglio dire, se qualcuno, se un ragazzino gli piace la PlayStation e funziona, bene, che giochi un po' a quello, cioè che riesca a spostare l'attenzione da una situazione complessa a una di quelle zone di sicurezza che sono quei piccoli piaceri che ognuno di noi può avere. Quindi c'è chi si occupa della piantina presente in casa, bene, cercate non di buttare l'attenzione su quello che sta accadendo, ma spostandolo sulle piccole zone di sicurezza. Questo aiuta a scaricare lo stress ed evita un accumulo esagerato che nel lungo termine non fa bene sicuramente. Voglio salutare in linea con noi il dottor Giuseppe Tolve, psicologo, lavora nell'associazione PSI Plus, è una ONLUS, un'associazione di psicologi che è impegnata per la diffusione di buone pratiche nella psicologia e nella psicoterapia, che lavora a fianco di un'organizzazione umanitaria italiana in prima linea delle emergenze, Intersos. Buongiorno dottor Tolve. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, voi siete proprio a sostegno delle persone che vivono l'emergenza. Che cosa state facendo? Sì. Sicuramente lo smarrimento e la totale precarietà, immagino che siano i principali stati d'animo registrati, no? Certo. Tra le popolazioni. Sì. Sì. Voi tra l'altro era proprio uno degli psicologi che era in servizio in un hotel di San Benedetto del Tronte, quindi che ha potuto raccogliere anche il sì. Così i racconti, il vissuto, le emozioni di chi è dello sfollato. Beh, noi con Intersos sì, siamo presenti accanto a queste persone sin dal campo, quindi dopo le prime scosse del 24 agosto. Abbiamo seguito il loro trasferimento qui a San Benedetto del Tronto con la chiusura dei campi allestiti dalla Protezione Civile e accompagniamo le comunità di Accumoli, Amatrice prevalentemente, in un percorso di sostegno psicologico. Ecco, su che cosa lavorate? Quando parlate di sostegno psicologico, effettivamente, perché è una parola che sentiamo ripetere, supportare, sì. Sostenere, aiutare, ma concretamente sì. Che cosa fate? Concretamente si parte dalla prima fase immediatamente post-emergenziale di ascolto e accoglienza dei vissuti e contenimento emotivo, in pratica di vicinanza, e prima di introdurre un percorso via via con il recupero di un pochino più di lucidità da parte loro, di rielaborazione, ridefinizione, risignificazione di quanto è accaduto, recupero della resilienza. E quindi insomma, cioè, prima è l'ascolto. Una prospettiva per il futuro, però per primo sì, in una fase immediatamente emergenziale, un ascolto empatico, un contenimento e soprattutto una vicinanza. Allora, noi dobbiamo dare la linea naturalmente al nostro GR, dottor Tolve, grazie per essere stato con noi. Se naturalmente mettiamo anche i riferimenti della vostra associazione sulle nostre pagine, buon lavoro. E noi diamo la linea ai colleghi del GR e intanto restate con noi, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Bentornati a Cuore e denari, sono Nicoletta Carbone, in studio con me e Deborah Rosciani, Laura Bettini. Vi stiamo, Laura, aggiornando sulla situazione. Ci sono... Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Cuore e denari. Sì, vi stiamo aggiornando via via su quello che accade, quello che che riusciamo a sapere dalle zone del terremoto e in particolare, ovviamente, come tutti sappiamo, dall'hotel Rigopiano di Farindola. Al momento però non ci sono novità rispetto a quelle che vi abbiamo detto nel corso di GR24, ovvero che i soccorritori sono arrivati, c'è l'accertamento di una vittima e sono una trentina i dispersi. Quello che sarà lo scopriremo nelle prossime ore. In linea con noi abbiamo il professor Marco Lombardi dell'Università Cattolica e coordinatore della Scuola di Protezione Civile. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Eccomi a voi. Allora, professore, una emergenza di questo tipo richiede naturalmente un modello organizzativo forte, perché noi quando commentiamo le immagini, le notizie che arrivano dalle terre del terremoto, ci facciamo, no? Andiamo un po' a sentire e ascoltare quello che ci dicono la nostra pancia e il nostro cuore, ma poi operativamente invece chi è lì ad assistere e a dare sostegno deve avere un'organizzazione molto solida e precisa. Quali sono, professor Lombardi, le priorità gestionali che si devono affrontare in un momento così difficile? Anche perché c'è l'emergenza dell'emergenza, cioè sembra quasi, no, un film, perché il terremoto, il freddo, la neve, la valanga che va a finire sull'albergo. Insomma, non c'è quasi da crederci, professore. Sì, purtroppo infatti è la realtà e non è un film. Averlo fatto apposta, averlo realizzato come uno script del film sarebbe sembrato eccessivo. Esagerato, no? Esatto. C'è qualche film degli anni 70 che ricorda cose di questo genere, se è tornati indietro, e questo è diventato realtà. Ed è il cumulo degli svantaggi, è veramente l'imprevedibile dell'imprevedibile. È chiaro c'è un minimo di prevedibilità all'interno di quelli che sono chiamati degli effetti domino, quello che è accaduto a Fukushima, per darci un'idea, uno tsunami che poi produce una serie di eventi collaterali. Ecco, quello di Rigopiano è un inverno particolarmente duro, una delle scosse di terremoto, il buio, il brutto tempo, e tutto questo rende molto difficile gli interventi rispetto a una risposta organizzativa che è estremamente complessa, così come deve essere in ogni emergenza. Noi sappiamo Ecco, reagire bene tutto sommato, teniamo presente questo, noi abbiamo un doppio sistema, quello della difesa civile e quello della protezione civile, spesso dimentichiamo la difesa civile che è chiamata a intervenire come primissima risposta, già è molto prossima all'evento la protezione civile, ma la difesa civile è fatta di quella componente di professionisti, per esempio i vigili del fuoco, per esempio il soccorso alpino, quelli proprio che sono arrivati a Rigopiano con gli strumenti che erano a disposizione, perché togliamocelo dalla testa, gli elicotteri l'abbiamo, ma se c'è la tormenta, il brutto tempo, la nebbia, il buio, l'elicottero non si alza, se ci sono 3 metri di neve i mezzi incatenati si impantanano in quella neve, quindi sono le gambe che si montano sulle pelli di foca con gli sci che riescono ad arrivare, e questi sono solo i professionisti del soccorso alpino che possono arrivare, quindi c'è un sistema di difesa civile estremamente efficace sul quale poi si impianta un sistema di protezione civile fatto di professionisti e volontari che sta lavorando a sprombatutto ormai da 6 mesi e più in quelle zone, dimostrando grande capacità. Non facciamoci sopraffare, noi che leggiamo dal di fuori, da quello che è inevitabilmente l'affettività, certo, che ci lega alle immagini che vengono tramandate, perché su questo siamo certi, le competenze ci sono. Vengono in Italia a studiarci, sarà, ripeto, di poca gratificazione per chi la casa l'ha persa e per chi magari ha un parente morto, vengono in Italia a studiarci da tutto il mondo per la capacità di risposta che abbiamo alle emergenze, poi ripeto, Rigopiano, ma così anche l'intera emergenza che stiamo affrontando, nevicate così elevate, seppur d'inverno, ma elevate, e un ritmo di scosse di questo genere, sono veramente il Black Swan, il cigno nero, come viene detto, l'inatteso, l'imprevedibile, già poco sono prevedibili questo tipo di emergenze. Ma è l'imprevedibile dell'imprevedibile. Che squassa un sistema che sta reagendo molto bene, è un sistema che è fatto da tutti, che richiede a tutti la capacità di rispondere, questo è importante, lo so che è difficile dirlo, anche da parte dei cittadini che sono soprattutto coinvolti da un'emergenza che sta durando troppo, e questo è il vero problema, no, ma non troppo perché non si risponde efficacemente, troppo perché la neve e le 5 scosse di oggi ci hanno ricatapultati indietro di 6 mesi, questo è il vero problema, e la capacità di sopravvivenza della gente si misura anche con questo reiterarsi della crisi. Grazie professor Lombardi per essere stato con noi. Grazie a voi. C'è una piccola buona notizia che arriva non da Rigopiano, ma comunque appunto dalle zone terremotate. Ieri abbiamo molto parlato di questo disperso a Campotosto, ebbene è stato individuato, tratto in salvo l'uomo che ieri era stato dato per disperso. È un uomo di nazionalità indiana, si era rifugiato sotto il tetto di un capannone pericolante. E leggo, è stato recuperato da una squadra di soccorritori del soccorso alpino della Guardia di Finanza, appunto, come dicevamo, tutte le competenze arrivano in questo momento, vengono messe in gioco, e anche la Guardia di Finanza, insomma, ha partecipato a questa operazione. Professor Perna, a proposito di competenze, ci dia, lei anticipava il rischio per le persone che già soffrono di attacchi di panico, di disturbi d'ansia, il professor Lombardi sottolineava il problema della reiterazione di questo stato di allarme e si ripercuote naturalmente anche a livello psicoemotivo. Abbiamo proprio pochi minuti prima di cedere la linea a Deborah per fare per dare un consiglio a chi ci sta ascoltando. Il consiglio è semplice e diretto: non lasciate perdere i vostri psichiatri, i vostri psicoterapeuti, i vostri medici, cioè in questo momento avete bisogno di un aiuto maggiore, no? Perché è il momento di contattarli, è il momento di chiedere cosa fare, è il momento di chiedere supporto, questo perché chi già soffre di un disturbo d'ansia è più sensibile, più vulnerabile proprio in questi momenti. Grazie professor Perna. Deborah. Allora noi cambiamo pagina. Esatto, cambiamo pagina, però la finestra aperta. Ma gli aggiornamenti rimangono. Laura Bettini rimane qui con noi, per cui pronti naturalmente a ridare la linea. Deborah, ce n'è già uno subito. No, non ce n'è una subito, però siccome era sfuggita a te, la ripeto per tutti. Insomma, sì, ci sono anche 2 persone tratte. Noi siamo un po' concitati qui dentro. All'hotel di Rigopiano, sì. No? E quindi c'è purtroppo una vittima, ci sono anche due persone tratte in salvo. Non si sa cosa è successo alle altre decine che erano là. No, tra l'altro colpisce anche tanti bambini. Esattamente, i bambini, uno dei sopravvissuti dice infatti sono uscito per prendere una cosa in macchina, ma dentro ho lasciato moglie e figli. Vabbè, proprio veramente un aspetto che è proprio difficile anche da raccontare. No, ma perché mi colpiscono tutte le immagini che continuano a trasmettere appunto le TV sull'interno, almeno quello che si può vedere fino a questo momento dell'albergo, che ha molte aree non raggiunte da tutti questi detriti provocati dalla slavina. Quella è la parte però a valle, quella che noi vediamo ed è quella da cui sono entrati. E io mi sono chiesta, dico, ma mannaggia, ma tutte le persone stavano proprio invece nella parte travolta. Magari le camere erano sul retro, davanti c'era l'atrio, sì, no? Sì, perché era la parte. Questo ci dice quanto è difficile, no? Farci un'idea della situazione. Senza conoscere, perché poi siamo tutti allenatori, soccorritori, siamo tutti medici. Come no? C'è una grande polemica, esatto, adesso io evitando di tirarla fuori, ma su appunto sulla protezione civile oggi, i ritardi, è stata politicizzata, Vasco Errani è diventato commissario troppo presto, certo, per le aree terremotate. Ma che vadano, insomma, chi vuole polemizzare a soccorrere quelle zone, tutte quelle frazioni, ecco, ribadisco. La protezione civile non si è ritirata, certo. Perché è un aspetto che ha ben sottolineato anche il professor Lombardi, la situazione è davvero complicata. Allora, noi proviamo a ripristinare un po' di ordinaria amministrazione nel nostro palinsesto con il nostro tema del giovedì. Peraltro mi colpiva il concetto che ha ripreso il professor Lombardi del cigno nero, perché è un concetto che tipicamente viene utilizzato appunto in ambito finanziario, quando si devono proprio richiamare un po' le attenzioni su tutti quei fatti assolutamente inattesi e che improvvisamente i mercati sconvolgono, come è successo un po' l'anno scorso con Brexit e con l'elezione di Donald Trump, tanto per citare i più clamorosi dell'anno scorso. E a proposito di Donald Trump, l'anno è partito dal punto di vista finanziario, lo ribadiamo più volte con i record di Wall Street. Proprio domani abbiamo il giuramento, l'insediamento del nuovo presidente americano, che tutti gli investitori aspettano al varco per fare una valutazione d'impatto delle promesse elettorali in campo economico. Abbiamo però anche altri temi su cui ragionare in questo periodo: un risveglio di inflazione con la nota eccezione italiana che invece ha messo le lancette dell'orologio dei prezzi indietro di 59 anni. Oggi abbiamo il primo meeting dell'anno della Banca Centrale Europea e intanto i mercati sono sempre molto movimentati e i rendimenti dei titoli di Stato sono sempre più in giù. Allora, mantenendo sempre l'attenzione sull'attualità di oggi, naturalmente facciamo un focus sull'andamento dei mercati finanziari e cosa fare in questi momenti, cosa ci suggerisce la finanza comportamentale. Questo è il piatto che vi serve oggi, la rubrica del giovedì. Investire informati. Oggi il nostro commento sull'attualità economica con tutti i consigli per i risparmiatori lo facciamo con Carlo Giausa, che torna a trovarci, ritornava dal maggio dell'anno scorso, per cui abbiamo naturalmente prodotto in questo periodo tante considerazioni da fare. Con lui, direttore investimenti e private banking di FinecoBank. Ho detto tutto correttamente? Tutto corretto, buongiorno e grazie per l'invito. Grazie anche a lei. 800 24 00 24, il numero verde che anche per questa parte di Cuore e Denari mettiamo come sempre a disposizione dei nostri ascoltatori. Allora, l'attualità non ci manca, li dobbiamo considerare dei cigni neri, Brexit e Trump, oppure non direi, erano proprio un po' grigetti? No. Grigetti. Non era niente di tanto disatteso comunque, anche se sulle previsioni so che lei, diciamo esattamente così, come tanti, Tacchini, è stato molto enfatizzato dal sistema dell'informazione. Eccoci, ti pareva che subito, cominciamo subito così la nostra chiacchierata di oggi, colpa nostra, insomma, che avevamo troppo puntato su altri cavalli e non quelli che sono poi risultati vincenti alla fine di queste due grandi competizioni elettorali, chiamiamole così, appunto di giugno scorso e poi di novembre. Allora, da cosa partiamo, Giausa? Ripartiamo un po' ricordando quello che ci eravamo detti nel nostro ultimo incontro, appunto quello di maggio, un mese prima di Brexit. Si parlava tanto della formazione, dell'informazione in termini di finanza comportamentali. La vostra società tipicamente fa un grandissimo lavoro appunto con sia i propri consulenti finanziari che con i clienti. Che tipo di lavoro avete fatto in questi mesi proprio magari per preparare il terreno ai risparmiatori rispetto a tutti questi cambiamenti che vedono intrecciarsi la politica con l'economia e la finanza? Sì, abbiamo continuato in quello che era il sentiero che avevamo tracciato lo scorso anno, quindi all'inizio dello scorso anno e anche nell'anno precedente, cioè continuare a incontrare consulenti e clienti in giro per l'Italia a raccontare quale deve essere la netta distanza fra un investimento di medio periodo e quindi un comportamento di medio periodo e tutto ciò che invece influenza il mercato finanziario nel breve periodo. Per quello prima facevo riferimento a quei due casi a cui facevi riferimento tu, quindi Brexit e Trump. Sono eventi di natura politica, che hanno di solito dei forti contraccolpi, positivi o negativi, e quindi non entro nel merito, sulla finanza, ma di solito quando non c'è una componente fondamentale si perdono nelle settimane successive l'evento, e questo è sostanzialmente successo. Nel 2016 quali fatti, visto che siamo ancora a metà gennaio e possiamo ancora continuare magari a rifare qualche riflessione che ci rimandi a quello che ci ha consegnato un 2016 che è stato anche per questi eventi piuttosto complicato, quali sono invece i fatti che vi hanno colpito particolarmente e che hanno impressionato particolarmente i risparmiatori che seguite con la vostra rete di consulenza? Ma 2016. Sicuramente c'era grandissima attenzione su Brexit, come giustamente anticipavi tu. Quello che noi abbiamo fatto, non con poche difficoltà, parlando con i clienti, è stato di spingerli a tenere una posizione di investimento, certo, che era stata condivisa qualche mese prima, e questo devo dire che ha dato ragione. Perché alcune simulazioni che abbiamo fatto e alcuni comportamenti che abbiamo visto, chi ha tenuto i nervi saldi e non ha fatto assolutamente niente ha portato a casa al 31-12 un rendimento assolutamente lusinghiero. Però, insomma, chi si è mosso, esatto, e certo, ha fatto un'operazione di timing e ha azzerato il suo rendimento o addirittura è andato negativo. Allora, quindi attenzione anche, come sempre ribadiamo, a non lasciarci condizionare dai fatti contingenti, tenere la barra dritta verso Giausa, i cosiddetti obiettivi di vita, come dire, il condizionamento dai temi di mercato li lasciamo agli investitori professionali. Detto questo, c'è un tema adesso importante di mercato che però va considerato, che continua ancora a dover essere considerato: i tassi di interesse che continuano a viaggiare su livelli molto bassi, guardando soprattutto alle obbligazioni e titoli di Stato, che sono ancora, come dire, lo strumento di investimento a cui gli italiani sono molto affezionati. Non so se prevalentemente affezionati, ma insomma fanno ancora fatica a digerire questo scenario di rendimenti a zero e sotto zero, soprattutto su certe scadenze. Voi che tipo di riflessione state facendo in questo momento e condividete con la vostra clientela? Perché mi rendo conto, appunto, anche da quello che ci scrivono, che in realtà qualcuno ha raggiunto anche una consapevolezza su tutto questo. Mi raccontava proprio qualche sera fa in un incontro un risparmiatore, un signore con una di una certa età, comunque, che mi diceva: voi continuate a dire, insomma, che questa è una situazione negativa, ma per me, che devo conservare il capitale, investire in un titolo di Stato che comunque mi dà un flusso cedolare anche al di sotto del 2%, per me va anche bene. Non è per me poi uno scenario così negativo, però non va bene neanche per tutti, ecco, una prospettiva come questa. Sì, allora diciamo che l'affetto che hanno i risparmiatori italiani riguarda il passato, perché abituati per un paio di decenni a tassi incredibili, tassi nominali incredibili, che poi nettati dall'inflazione magari erano vicino allo zero, addirittura sotto zero, ha fatto sì che ci sia ancora questa coda. Devo dire che negli ultimi 2 o 3 anni noi abbiamo una componente media delle obbligazioni che è adesso intorno al 60-62%, il resto è un 30% di azionario, parlo di un medione degli investitori, sempre fatto tendenzialmente attraverso fondi di investimento ETF. E questo fa sì che comunque si capisca un progresso anche del risparmiatore italiano medio verso strumenti alternativi alle obbligazioni. Nel momento in cui c'è un fenomeno di inflazione che è molto positivo per l'economia reale, quelle che soffrono di più sono le obbligazioni che hanno una durata lunga, perché evidentemente quando iniziano a salire i tassi, le obbligazioni che soffrono di più sono quelle decennali, settennali, ventennali, perché il loro prezzo diminuisce. E sono favorite le obbligazioni inflation linked, quelle legate al tasso di inflazione, sempre con le dovute cautele, cioè non mai esagerare con un solo strumento, perché poi la finanza di solito anticipa i movimenti del mercato. E per esempio l'anno scorso è stato un buon anno per le obbligazioni inflation linked, quando l'inflazione era soltanto attesa. Infatti. E questo sta avvenendo, non in tutte le parti del mondo, ma in alcune parti del mondo sta avvenendo, quindi comunque non bisogna concentrare tutto su questo genere di titoli, perché si potrebbero anche avere delle sorprese negative. E certo, comunque delle oscillazioni momentanee che qualche volta spaventano, e sono proprio quelle circostanze che poi fanno scappare tutti quanti l'inflazione nel momento sbagliato. È qualcosa di positivo, qui non parliamo di inflazione che dal 5 passa all'8. Che potrebbe essere preoccupante. Dallo 0,1 alla 0,2, esatto. Proprio. Quindi vuol dire che l'economia reale in alcune zone del pianeta inizia a risvegliarsi, in altre già sveglia, in altre ancora dormiente. Quando i tassi salgono è un buon segnale per l'economia, per cui sicuramente l'economia reale sta reagendo, l'azionario in questo è sicuramente uno degli investimenti più. Nicoletta, mi dici allora per favore che non la vedo qui perché oggi abbiamo Laura avverto, Bettini che ingombra lo studio e non mi consente la visuale adeguata. No, allora sono le 11:27, 52 secondi. Allora 28. Io direi che possiamo dare la linea alla regia. Siccome Carlo Giausa mi ha offerto, come si dice sempre, su un piatto d'argento un tema importante che è quello dell'inflazione, e siccome stiamo notando un risveglio importante, molto anche i nostri ascoltatori, perché le domande ci sono. Davvero? Sì. Ecco, c'è un risveglio importante in alcune economie europee, un risveglio importante anche negli Stati Uniti, da noi invece zero sotto zero, per cui come affrontare anche questo scenario? Allora, talmente importante come argomento che direi lo approfondiamo subito dopo l'aggiornamento dai mercati finanziari, quindi linea alla regia tra pochissimo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta per proseguire con la nostra rubrica del giovedì, Investire Informati. Prima di aprire il delicato capitolo risveglio dell'inflazione, cosa fare se ci dovesse essere qualche fiammata quest'anno, al momento non prevista, ma sappiamo bene che insomma non siamo proprio esattamente campioni di previsioni, e questa teoria è stata suffragata appunto negli ultimi mesi alla luce di quanto accaduto con Brexit, Trump e tanto altro. Allora, prima di aprire questo capitolo ve ne voglio aprire un altro che è molto interessante. Ieri a Roma è stato presentato il primo censimento nazionale sulle iniziative di educazione finanziaria in Italia, il censimento sulle iniziative in corso su tutto il territorio promosse da vari soggetti pubblici e privati. L'idea è quella di tirare le fila di tutto ciò che è operativo per valutare l'efficacia che hanno avuto queste operazioni e far decollare una volta per tutte una strategia nazionale che abbia l'obiettivo di coordinare tutto il preesistente e monitorare appunto i risultati di tutto ciò, magari anche gli insuccessi, e apportare delle correzioni. Allora, a cosa è servita questa operazione e soprattutto cosa consentirà di fare da qui in avanti? Ci racconta tutto la dottoressa Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti antiriciclaggio di Banca d'Italia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. E grazie a lei. Allora, molte esperienze da cui raccogliere diverse buone prassi, ancora molto frammentate, questo è quanto è emerso appunto nell'appuntamento di ieri. L'esigenza è quella di convergere su magari un unico percorso condiviso, no? Il tema però è, dottoressa Bianco, è che, come dire, non è che non si faccia proprio nulla in Italia, anche se continuiamo a evidenziare la questione della scarsa educazione finanziaria e la larga impreparazione degli italiani sui temi del risparmio e dell'investimento. Però il tema buono è che non partiamo proprio dall'anno zero. Cosa avete scoperto con questo censimento? Esatto, non partiamo dall'anno zero, ci sono molte iniziative, molti soggetti che fanno cose in materia di educazione finanziaria. Noi ne abbiamo censite 206, ma probabilmente ce ne sono altre che non abbiamo raggiunto, che sono in molti casi di buona qualità, che producono buoni materiali, materiali interessanti. Il problema resta che, come lei ha già detto, sono frammentate, sono diffuse sul territorio e spesso non se ne ha abbastanza conoscenza, da un lato. Dall'altro è difficile, una per l'altra, di sfruttare le buone prassi e metterle a fattore comune. L'ultima debolezza è che è ancora molto difficile, pochi lo fanno, valutare l'efficacia di questi interventi, quanto lasciano nell'interlocutore. Questo è un tema complesso da affrontare, è un tema aperto anche sul fronte internazionale, ma che va assolutamente risolto per convergere su quello che effettivamente funziona, dato che le risorse sono scarse. Dal censimento i prossimi step, perché ieri sono state presentate anche delle proposte concrete per fare in modo che questa strategia nazionale sull'educazione finanziaria decolli, che cosa farete nei prossimi mesi, dottoressa Bianco? Perché tra l'altro, ecco, Banca d'Italia, poi magari qualcuno potrà sollevare molti problemi a questo proposito e qualche perplessità, e avremo magari occasione di parlarne in altre circostanze, però è proprio Banca d'Italia che si candida a poter effettuare questo coordinamento. Banca d'Italia si candida, ma insieme agli altri soggetti, certo, con cui abbiamo cooperato molto efficacemente in questo primo passaggio. La parola chiave per noi è coordinamento, lavorare insieme per questo obiettivo. Abbiamo bisogno naturalmente di un endorsement politico più alto, il Ministero dell'Economia ha annunciato un piano operativo, ci fa molto piacere, potrebbero esserci dei disegni di legge che dovrebbero diventare legge, pure questo ci farebbe molto piacere. Noi intanto abbiamo proposto, ci siamo candidati come gruppo di promotori, ma speriamo speriamo di coinvolgere altri, per qualche iniziativa concreta nel prossimo futuro. La prima è quella di rendere permanente questo osservatorio sulle iniziative, creando un archivio dove far confluire in modo schematico e facilmente leggibile tutte le iniziative che già si fanno. Lo renderemo disponibile a brevissimo, speriamo entro un mese, in modo che tutti quelli che sono interessati e disponibili ci raccontino cosa fanno e noi possiamo restituirlo a tutto il resto del sistema in modo organizzato e facilmente leggibile. La seconda proposta, un po' più ardita, è di arrivare alla fine dell'anno organizzando un'iniziativa di respiro nazionale. Un'iniziativa specifica su un tema molto concreto, noi abbiamo buttato il tema del rischio ma possiamo individuarne un altro, su cui far convergere tutte le forze che si stanno muovendo nel mondo dell'educazione finanziaria per provare a fare un salto di qualità almeno in una giornata o in poche giornate dedicate a un tema specifico. Molto bene, ci tenga aggiornati su tutto ciò, come procede tutto ciò, e noi lo racconteremo ai nostri ascoltatori, anche se abbiamo un'idea anche un po' più ambiziosa. Adesso, monitorando il censimento, l'ho visto, tutte le 200 iniziative sparse sul territorio, molte ci è capitato di raccontarne a Cuore e Denari, ma magari le scandaglieremo con maggiore attenzione. Benissimo. Per poterle trasmettere ai nostri ascoltatori in modo tale che vi possano anche partecipare, così che si arricchisca un po' anche l'attività appunto di questi di queste iniziative finanziaria. Molto bene, grazie dottoressa Bianco, buon grazie lavoro, a presto. Buona giornata, grazie. Carlo Giausa, tanto lavoro da fare, per fortuna dicevamo non siamo proprio all'anno zero, nonostante la percezione diffusa continui ad essere quella che in Italia non si faccia nulla, che gli intermediari finanziari si approfittano dei poveri risparmiatori, cose che in certe circostanze sono anche vere. Il tema del risparmio tradito che ritorna costantemente, i clienti che si fidano ancora della propria banca dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni. Qual è il vostro approccio nei confronti di questo tema specifico, iniziative di educazione finanziaria, ma soprattutto anche sul tema della relazione banca-cliente che è costantemente minata? Dopo la questione delle quattro banche risolte sono cambiate molte cose. Insomma, un tema molto ampio, mi rendo conto come lo possiamo sintetizzare. Certo. Con lei. Ma molto, molto interessante il fatto che Banca d'Italia si proponga a fare da coordinatore di iniziative del genere. Questo secondo me potrebbe essere una spinta definitiva verso un'iniziativa che oggi è evidentemente molto, molto frammentata. Per quanto riguarda la domanda relativa al sistema finanziario, alla fiducia, quello che dicevi in relazione poi alle quattro banche, allora secondo me c'è qualcosa di positivo da vedere in questa situazione che per alcuni aspetti è stata molto negativa, ed è quella che noi stiamo assistendo a una rotazione naturale di clienti che passano da una banca ad un'altra. Passare da una banca ad un'altra vuol dire che moltissimi investitori, moltissimi risparmiatori stanno iniziando a fare delle scelte, cioè esattamente come tu scegli un negozio perché... Certo, il tema del confronto porta anche... È proprio così, vuol dire concorrenza, vuol dire che il risparmiatore italiano anche da solo, anche tramite la rete, oltre che con i mezzi di informazione, inizia a guardare cosa c'è oltre la propria di banca e alla fine sceglie. E questo sta succedendo, gli ultimi tre anni sono di rotazione abbastanza violenta, alcune cause sono da individuare in quelli che sono stati degli atteggiamenti. Le fuoriuscite per esempio da Monte dei Paschi, tanto per citare il caso più clamoroso, soprattutto fino a dicembre erano state clamorose, enormi, poi ieri l'amministratore delegato Marco Morelli ha detto si sono un po' arrestate, detto questo, quello che è successo l'anno scorso sotto gli occhi di tutti. E comunque quando un cliente non è soddisfatto della propria banca ha tutto il diritto ma anche il dovere di informarsi, di trovarne una migliore. Perché sul mercato può farlo, e il mercato è libero ed è concorrenziale, finalmente mi verrebbe da dire. Quindi insomma paradossalmente casi molto gravi per certi versi, soprattutto per le conseguenze che molti risparmiatori hanno dovuto sopportare, ma che paradossalmente stanno producendo anche una maggior competitività appunto del settore e opportunità. Allora abbiamo un ascoltatore, Nicoletta, mi ricordi come si chiama? Si chiama Giuseppe, arriva da Torino. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Perché con la domanda di Giuseppe appunto reintroduco il tema che avevamo mantenuto in sospeso poco fa. Giuseppe, benvenuto. Ricordo ancora 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Eccoci a lei. Sì, buongiorno. Riguardo di tutto ciò, la mia domanda è molto semplice. Io sono un piccolo risparmiatore dove ho praticamente tutti i miei risparmi lasciati in conto corrente, ovviamente per le paure che si sono create in questi anni. Non è una grande cifra, stiamo parlando di 40.000 euro, ecco. Però Se la sarà sudata Giuseppe, per cui meritevole del totale pieno rispetto da parte di tutti, perché però, per qualcuno... Le paure sono tante, quindi anche con una cifra così, questi soldi sono buttati su un conto corrente, volevo capire se ci fosse una forma di... Certo. Giuseppe, un bravo consulente, grazie. La prima cosa che farebbe con lei, le chiederebbe a che cosa le serve questo denaro, lo tiene lì perché magari ha in mente fra Carlo già usa un anno di comprare una casa. Parla oppure come un libro stampato. Ormai è cosa dobbiamo fare qua. Avrò portato a casa anch'io qualche lezione da tutto quello che provo a trasmettere, che proviamo a trasmettere. No, quindi la prima cosa importante è quella che Giuseppe si faccia questa domanda. Esattamente. Una volta data una risposta o parzialmente data una risposta, perché dei 40.000 magari 5.000 possono servire a un'esigenza di domani, gli altri 35.000 no. La prima cosa su cui riflettere è che seppure l'inflazione è bassa, se i soldi rimangono su un conto corrente vengono erosi dall'inflazione, per cui che è proprio quella circostanza che non si vede, ma il potere d'acquisto dei tuoi soldi diminuisce dell'1, del 2, del 3% a seconda dei momenti di mercato. Prima cosa da fronteggiare. Seconda cosa è capire insieme a una persona che ti può aiutare a guidare la pianificazione come mixare azioni, obbligazioni, mercato monetario per investire i tuoi soldi e per far sì che il rendimento dei tuoi soldi nel medio periodo, quindi 3-5 anni almeno, sia superiore all'inflazione e ti garantisca il potere d'acquisto. Qui non parliamo di arricchirsi, ma di preservare il valore dei tuoi soldi. Infatti credo che per un profilo come quello di Giuseppe la cosa più importante sia assolutamente proteggere questo denaro che lui diceva, insomma, risparmio è piccolo, ma proprio per questo motivo è tanto prezioso, per cui forse sottoporlo a grandi oscillazioni oppure magari dividerlo in due parti, una provare a proteggere, esatto, e quindi un'altra a provare invece a rischiare un pochino di più per trarre vantaggio da momenti di mercato favorevoli. Sicuramente quando il denaro è investito nel medio-lungo termine in attività reali, quindi economia reale che cresce anche in periodi in cui sembra tutto nero al 3-4% a livello internazionale, una parte di investimenti nel mercato azionario internazionale è imprescindibile. Mm-hmm. Allora, fra un po' devo andare in traffico, ma vedo anche Laura che ci richiede appunto la linea. Vi volevo fare un piccolo riassunto delle ultime notizie che arrivano dal fronte terremoto e dal fronte dell'hotel di Rigopiano. Per quel che riguarda, adesso parliamo di traffico tra pochissimo, bene, la polizia ovviamente sconsiglia a tutti di fare viaggi che comportino l'attraversamento di quelle regioni. Mi sembra scontato, ma forse non lo è, se è necessario ripeterlo, forse c'è qualcuno che sta tentando comunque di attraversare l'Italia da est a ovest, da nord a sud, ma passando per quell'area. Secondo punto, l'Enel promette di ridurre oggi a 60.000 le utenze che ancora disattivate, cioè ne toglierebbe 30.000, 38.000, perché insomma, ieri sera erano 98.000. Una buona notizia, certo, 60.000 sono ancora tanti, perché poi utenze vuol dire magari 120.000 persone, non è detto che a ogni utenza corrisponde ci sono nuclei familiari, esatto, forse anche di più. Forse anche di più. Per quel che riguarda gli sfollati, stanno arrivando a Porto Sant'Elpidio, quindi sulla costa marchigiana, qualche centinaio di persone che viene accompagnata, ovviamente in aree più sicure e più calde in questo momento. Per quel che riguarda invece Rigopiano, il prefetto di Pescara dice: io non posso né confermare né smentire che ci sia un morto nell'hotel, perché per rispetto alle famiglie, tra l'altro non abbiamo, dice lui, anche dei numeri precisi sul numero di ospiti di questo hotel, perché quello che sappiamo ci è stato riferito dalle persone che si sono salvate, quindi da quei due superstiti che dicono: mi ricordo una ventina di persone, 7-8 bambini e così via. Le notizie, diciamo, più fresche, più concrete che ho trovato su questo fronte vengono dall'inviato di Repubblica Corrado Zunino, che è sul posto e che con dei tweet aggiorna un po' la situazione, e lui dice che gli speleologi medici non riescano a portare via terra l'attrezzatura di rianimazione che servirebbe per due bambini, quindi sarebbero stati individuati, forse finalmente i soccorritori sono arrivati nelle stanze in cui si sono rifugiati gli ospiti, e pare che si siano rifugiati nelle parti più basse, quelle della sauna. A me sembra incredibile, perché se l'hotel è stato spostato e traslato a valle, non so come si possa salvare andando sottoterra, ma insomma io non sono lì, è quello che ci dicevamo prima. Queste sono le ultime, Deborah. Grazie. Il traffico, torniamo tra poco. Cuore e denari. L'ultima parte di Cuore Denari, dedicata ancora ad investire e informati, i temi del giorno, l'approccio corretto all'investimento in questa fase così complicata, perché i mercati finanziari ovviamente continuano a ballare, è il loro lavoro, ma poi ballano anche in concomitanza di fatti politici che stiamo cominciando anche ad imparare ad osservare, forse con maggiore attenzione del passato, perché abbiamo visto come anche certe scelte politiche di grandi collettività legate naturalmente un po' anche al populismo, alle questioni economiche, poi condizionino pesantemente l'andamento dei mercati finanziari e quindi anche il nostro risparmio. Ci sono però, Carlo Giausa, perché annuiva mentre facevo questo ragionamento? Per farmi complimenti per quanto sono brava e simpatica. Condivideva l'osservazione. Senta, intanto noi invitiamo sempre i nostri ascoltatori / risparmiatori a osservare attentamente le notizie economiche, i mercati finanziari, ma anche le questioni di regolamentazione, e abbiamo, che pende sopra il nostro capo, l'arrivo di un altro aggiornamento della cosiddetta MiFID, che è la appunto direttiva che disciplina i mercati finanziari. Siamo alla versione 2/3, alla 2.0 3.0, che stanno praticamente lasciando il testimone l'una all'altra. Ci spiega un po' che cosa sta succedendo, cosa deve sapere un risparmiatore su questo tema? La regolamentazione del settore, e quindi MiFID 2, andrà sempre più, e questo a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, verso trasparenza fra chi eroga servizi di investimento e chi riceve l'assistenza e la consulenza in materia di servizi di investimento, in termini di adeguatezza del prodotto servizio collocato al profilo di investimento, introduce la consulenza indipendente. E ovviamente questo fa molto bene, e noi speriamo farà sempre meglio al rapporto fra risparmiatore e intermediario. Quindi innanzitutto trasparenza. E trasparenza sì, allora non so se dobbiamo dare, Laura, vuoi la linea oppure poi continuiamo? Possiamo prenderla tra un attimo, finito questo discorso, magari abbiamo un'intervista al prefetto di Pescara, così sai di cosa stiamo parlando, quindi forse vi conviene chiudere il vostro discorso e poi lo sentiamo. Grazie, allora no, completiamo appunto questo ragionamento sulla MiFID, perché in realtà per molti risparmiatori c'è il tema di andare in banca e per essere valutati nella propria adeguatezza finanziaria, per avere un identikit del proprio profilo di rischio. In realtà molti si lamentano, è tutta carta che devo firmare, quindi è solamente un modo per tutelare la banca dal evitare di assumersi delle responsabilità. E poi abbiamo visto anche come nel caso degli ultimi casi di risparmio tradito, questi documenti, questi profili vengono cambiati in corsa a seconda appunto della tipologia di investimento che il risparmiatore vuole fare. Magari una persona molto prudente diventa improvvisamente, non dico quasi speculativa, ma comunque un po' più aggressiva. Anche da questo punto di vista, secondo lei, ecco, questa evoluzione della MiFID porterà un po' più di attenzione da questo punto di vista? Io spero di sì, di sì, anche perché comunque... Quindi non consideriamola solo carta da compilare, ma... Molti passi sono stati fatti avanti, per esempio il tema dei costi che spesso sono scritti piccoli da qualche parte o non scritti, da questo punto di vista MiFID 2 dovrebbe dare una maggiore, ma molto maggiore trasparenza a tutto quello che io pago in un fondo di investimento, in un contratto di consulenza, in una gestione patrimoniale, che sia molto chiaro, molto più chiaro di quello che è. Ho fatto l'esempio dei costi, ma credo che comunque MiFID 2 aiuterà molto il rapporto fra risparmiatore. La terremo sotto osservazione questa tematica, magari facendoci una puntata apposita, perché poi c'è anche tutto il tema della nuova consulenza indipendente, che è molto complicata, e so che c'è anche grande dibattito all'interno del mondo della consulenza su questo. Sul tema invece dell'inflazione, che forse non abbiamo esaurito prima, allora, che si risvegli o no, che l'Italia stia in deflazione, che cominci invece a prendere quota l'inflazione tedesca, un po' quella tutta europea e anche quella americana, come dobbiamo approcciarci come risparmio a questo tema da qui ai prossimi mesi? Allora, primo suggerimento, il risparmiatore italiano è italiano, ma gli investimenti del risparmiatore italiano solo marginalmente devono essere investiti in Italia, come succede in tutti i posti del mondo. Quindi il risparmiatore italiano deve investire internazionale. Che sia l'inflazione zero in Italia o molto più bassa ci interessa, ma relativamente rispetto al portafoglio. Quindi sicuramente investimento obbligazionario diversificato, inflation linked, internazionale. Cosa va bene quando parte l'inflazione? L'economia reale. Economia reale vuol dire aziende, e aziende vuol dire azioni. Con l'aiuto del consulente iniziare in maniera molto graduale